come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta il cielo in questa stanza. Presenza, perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Riempi questo luogo.